Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: alle 19 la fiducia sul decreto anticrisi con le modifiche apportate attraverso gli emendamenti che hanno anche fatto storcere la bocca al Presidente della Camera Fini, perché sono modifiche dopo l'esame invece fatto dalle commissioni parlamentari, e la fiducia verrà posta su decreti modificati in commissione, no, modificati dopo la formulazione che era uscita dalla commissione. Poi parleremo della borsa, che oggi vede prevalere qualche realizzo, ma ricordo 9 sedute consecutive di rialzi, meno 0,6% in questo momento Milano, ma anche Parigi, Francoforte meno 0,7%, Londra invariata, l'America meno 0,6%, euro sempre a quota 1,419, e vedo già, prima ancora di iniziare il programma, già erano arrivati messaggi al 349-238-6666 sui prezzi dei carburanti. Io non so quante puntate abbiamo fatto per ricordare che stranamente a ridosso di ogni ponte, dell'Epifania, dei ponti primaverili, delle ferie estive, la benzina conosce questi ritocchi. Comunque il petrolio è poco mosso ed è a $67 il barile. Immagino che il motivo del ritocco della benzina sia che il petrolio sta scontando i prezzi di qualche mese fa. Vabbè, ma insomma, fatto sta che, come ricordava anche il nostro GR, ormai la benzina è salita sopra 1,3 euro, gasolio a 1,14 euro per litro, e tra l'altro oggi ho ritoccato anche l'Agip a 1,31, il gasolio a 1,13. Devo dire che questi aumenti vanno avanti da 10 giorni a questa parte, e lo ripeto senza nessuna polemica, sono classici nei periodi dei grandi esodi, natalizi, pasquali, estivi. Insomma, dal 14 luglio sono saliti di oltre 2 centesimi e non si fermeranno qua. Addirittura calcolano i Codacons 2,5 euro in più a pieno, che per carità non sarà la fine del mondo, però non si capisce perché pagarli sempre quando milioni di italiani si devono trasferire per le vacanze. Comunque parleremo anche di questo, parleremo di un caso anche singolare, la De Beers, il colosso mondiale dei diamanti, ha grosse difficoltà, si comprano meno diamanti in tempi di crisi, ce ne faremo una ragione, però a parte tutto è un settore industriale, un settore economico anche quello. E poi alcune trimestrali uscite oggi: Edison, Vodafone, Apple, Microsoft, AT&T, soprattutto oggi il mondo dell'information technology, delle telecomunicazioni. Vi dico subito che sul fronte telecomunicazioni i dati sono migliori delle attese, a segnalare appunto che le TLC tengono quanto a giro d'affari. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve. Ma sì, apprezziamo l'ironia di chi scrive: beh, ormai possiamo dire che in base al prezzo della benzina si può capire in che periodo dell'anno uno si stia trovando. Avete ragione, diciamo che si può capire se si è vicini alle feste in base al prezzo della benzina. Andiamo avanti con le notizie. Invece il petrolio, dicevamo, poco mosso, sopra i $67 al barile, nuovo minimo storico per l'Euribor che scende a 0,92%, il tasso interbancario di riferimento utilizzato poi per calcolare lo spread e quindi la differenza con i mutui applicati dalle banche. Ancora esodo estivo, anche i colletti bianchi al check-in. Che cosa succede? La frase sembra un po' criptica. In sostanza, in vista delle giornate delicate, ossia le 2 settimane più intense dell'anno per il trasporto aereo, i manager di Alitalia e dei loro collaboratori lavoreranno anche di sabato e di domenica, nei prossimi due fine settimana su base volontaria, ma non lavoreranno dai loro uffici, bensì all'aeroporto di Fiumicino, praticamente al check-in. L'idea dell'amministratore delegato Rocco Sabelli per rafforzare i servizi al personale e poi per cementare un clima positivo interno all'azienda. Dicevamo dei diamanti, anche lì, insomma, non vogliamo occuparci di brioche, diamanti e quant'altro, però è interessante notare come per il colosso mondiale, che di fatto non dico il monopolista, ma quasi, dei diamanti, la De Beers, meno 57% le vendite nei primi sei mesi dell'anno. È il calo più forte dal 1974 per il gruppo sudafricano, che praticamente ha venduto diamanti grezzi per 1,4 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell'anno, contro i 3 miliardi e 700 milioni di dollari nei primi sei mesi del 2008. Continuano a essere difficili i conti anche di un altro marchio conosciutissimo, Harley Davidson. Il gruppo ha chiuso il secondo trimestre con un meno 30%, soprattutto colpite le moto di grossa cilindrata, quelle più costose, meno 48%, e salteranno altri 1000 posti di lavoro purtroppo nel Harley Davidson dopo i 1500 già previsti. Meno 48% anche l'American Express nel secondo trimestre dell'anno. L'utile è calato a 340 milioni di dollari. E come mai? Beh, perché sempre più consumatori fanno fatica a onorare i propri impegni di pagamento con l'American Express e quindi entrano meno utili. Devo dire che rispetto alla temuta tensione sulle carte di credito, per ora non si vede. Questi segnali non ci sono, American Express resta inutile, non c'è stato il temuto così collasso o scricchiolio del settore delle carte di credito. Bene invece Microsoft, anche se sotto le attese degli analisti, ma insomma ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto a 3 miliardi di dollari. Certo, è in calo del 29%, il fatturato è in calo del 17% a 13 miliardi di dollari. Deludono le attese degli analisti anche i dati di Ericsson, meno 56% gli utili del trimestre, mentre Vodafone, ne parleremo più avanti, ha confermato i suoi obiettivi, più 9%. Ancora, così diamo alcune trimestrali italiane, Edison ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con i ricavi in calo del 6%, l'utile però è cresciuto del 19% a 122 milioni di euro. E poco fa è arrivata la notizia da Bruxelles che la Commissione Europea ha dato il via libera all'acquisto della Chrysler da parte della Fiat. Era un atto atteso ma dovuto. Altra notizia di carattere italiano riguarda invece la trattativa che si è aperta oggi per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. L'ha aperta oggi Federmeccanica chiedendo che non pesi sul 2010, ossia il presidente Federmeccanica Ceccardi ha chiesto che, vista la crisi, la difficoltà che porterà nel 2010, l'anno prossimo non dovrebbe essere appesantito da ulteriori aggravi, e quindi diciamo in sostanza aumenti sul 2010. C'è un no di Federmeccanica. Ascoltiamo intanto la posizione di Federmeccanica di Pierluigi Ceccardi e poi sentiamo anche i sindacati. Pierluigi Ceccardi al microfono della nostra Chiara Di Michele. E capire innanzitutto come considera, come è partita questa. Buon lavoro, grazie. Si può capire come è partita questa trattativa? Io ritengo sia partita nel modo più normale possibile, nel senso che noi abbiamo esposto i nostri punti di vista, le tre confederazioni ci hanno illustrato le loro piattaforme. È chiaro che hanno visioni diametralmente una. La FIOM ha una visione diametralmente diversa dalla nostra, ma questo è legittimo, è nell'ordine delle cose. Sulla piattaforma degli altri due sindacati, secondo me c'è spazio per lavorarci, per approfondirle, per cercare le soluzioni. La vostra richiesta qual è? La nostra richiesta è di rispettare assolutamente le regole del 15 aprile. Le aziende sono in grande difficoltà. Vero è che secondo me la caduta è terminata. Si possono intravedere in qualche situazione delle timidi segnali di ripresa, ma di qui a considerarci in ripresa c'è ancora tanta strada. Quindi no ad aumenti nel 2010 per Federmeccanica, la posizione dei sindacati. Antonino Regazzi, segretario generale della UILM, sempre al microfono della nostra Chiara Di Michele. Che ci sia la crisi ne siamo consapevoli, anche noi tutti i giorni misuriamo la crisi almeno con la cassa integrazione, con la riduzione d'orario che ci sono, e per questo abbiamo presentato una piattaforma molto responsabile, non rinunciataria, perché abbiamo bisogno di offrire ai lavoratori un elemento di certezza in mezzo a questa confusione. Quindi il rinnovo del contratto nazionale con durata triennale si offre al lavoratore un elemento di sicurezza. Quindi vogliamo rinnovare questo contratto, lo vogliamo rinnovare con le regole, vogliamo farlo al più presto possibile, perché dal 1° di gennaio incomincia a decorrere la normativa e la parte, soprattutto la parte economica di questo contratto. Ancora un paio di notizie in breve. L'antitrust, come avete sentito dal nostro GR, ha deciso di avviare un istruttorio sui diritti TV della Lega Calcio. E poi una nota è Enrico Giovannini, che alcuni di voi ricorderanno, ospite più volte in questo programma in quanto capo del Dipartimento di Economia dell'Ocse, ed è Enrico Giovannini, nuovo presidente dell'Istat. Questo ormai viene dato per certo, anche se l'ufficializzazione non c'è ancora, ma lo riferiscono fonti governative. E in bocca al lupo anche al nuovo presidente dell'Istat. Adesso noi invece partiamo col decreto legge anticrisi. Tra un'ora e mezza, poco più, dovrebbe esserci il voto di fiducia con le modifiche su un testo che è stato modificato rispetto a quello portato in Parlamento, su cui si pensava sarebbe intervenuta la fiducia, ossia quello uscito dalle commissioni. Infatti la presidenza di Montecitorio ha tolto dal disegno di legge due norme inserite dal governo e non affrontate nella discussione in commissione, quelle sulle reti di energia e sugli studi di settore. Il governo invece ha cancellato due cose che erano uscite dalle commissioni, ossia la parte sulla stretta alle banche duramente criticata dall'ABI che riguardava, adesso non possiamo spiegarla ogni volta, il tetto dello 0,5%. Che non poteva essere superato per in caso di messa a disposizione di fondi, e tra l'altro nella prima versione lo 0,5% andava applicato non solo al rosso concordato ma anche ad eventuali sconfinamenti, così come è saltata la norma che prevedeva in caso di modifica unilaterale dei contratti un tetto del 5% come aumento dei costi. Queste due cose fortemente criticate dall'ABI e dall'Associazione delle Banche Italiane non ci sono più, resta invece la moratoria per i debiti delle piccole imprese, e nel provvedimento anche una norma che hanno annunciato questa mattina i ministri Tremonti e Matteoli, che dovrebbe consentire di realizzare nei tempi stabiliti il ponte sullo stretto di Messina, ossia entro il 2016. In mattinata c'è stato anche il Consiglio dei Ministri che ha deciso il commissariamento di Molise e Campania quanto a gestione sanitaria. La gestione viene affidata ai presidenti, insomma commissariata la sanità molisana e campana. Praticamente dovrebbe essere poi, adesso come passaggio ad interim viene affidata ai presidenti delle regioni, poi dovrebbe essere successivamente affidata a commissari o subcommissari esterni alle amministrazioni. Dino Peso, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Atto dovuto, ha detto il ministro Welfare Moritz Sacconi, il commissariamento del Molise alla Campania per via degli sforamenti. Tra l'altro, su questo insomma ci sono state poche reazioni. Mi sembra che tutto il dibattito politico parlamentare si sia concentrato su queste modifiche intervenute a favore delle banche, ma non tanto per il contenuto, Dino, correggimi se sbaglio, quanto per le modalità. Beh sì, esattamente, per la parte della sanità va ricordato che la decisione del Consiglio dei Ministri è in qualche modo obbligata, perché c'è appunto una norma della finanziaria 2005 che dispone che basta che le regioni sforino il piano di rientro di appena un 7% per far sì che poi venga nominato un commissario. Quindi questa è la procedura che in qualche modo è obbligata. Poi insomma si vedrà nel corso delle prossime settimane se queste regioni riusciranno a rientrare dal loro buco della sanità. Per quanto riguarda la manovra, sì, c'è stata una forte polemica politica riguardo alle modalità, perché in effetti il dibattito in commissione, nelle commissioni di merito, bilancio e finanze, è stato piuttosto normale, cioè è stato il frutto di un confronto anche tutto sommato costruttivo che ha prodotto anche l'approvazione di alcune correzioni che erano state proposte dal Partito Democratico. Quello che è accaduto è stata la decisione del governo di porre la fiducia su un maxi emendamento che andava a riscrivere le correzioni che erano state apportate dalle commissioni, e dunque c'è stato qualcuno, ma anzi più di uno nell'opposizione soprattutto, che ha detto va bene, allora questa è una violazione, diciamo, della centralità del Parlamento, perché il Parlamento lavora concordemente, poi arriva il governo e con l'accetta in qualche modo decide. Non è la prima volta che accade, diciamolo, perché insomma è un po' una prassi questa dei maxi emendamenti che sostituiscono. Ricordo è proprio forse proprio questa del 2005 che citavamo poc'anzi, che si concluse con ben 1500 commi e un articolo 1. Dunque questa è una prassi che viene riproposta di volta in volta, sicuramente bisognerà in qualche modo porvi rimedio, considerando che poi c'è stato un richiamo molto fermo del Capo dello Stato con lettera ai Presidenti di Camera e Senato, in cui proprio qualche settimana fa si diceva va bene il ricorso ai decreti, seppur bisogna limitarne il ricorso, ma c'è questo eccesso anche di voti di fiducia su maxi emendamenti che poi vanno a riscrivere molto spesso interamente l'impianto originario, non può più sussistere. Quindi su questo probabilmente in autunno servirà una riflessione in Parlamento. E questo, diciamo, riguarda anche il dibattito parlamentare, cioè insomma il non esautorare, secondo la critica, il Parlamento delle sue funzioni. Torniamo invece, per concludere, di non peso dai contenuti, perché al di là di queste modifiche chieste dall'ABI sulla parte bancaria, questo è il decreto anticrisi che prevede, lo ricordavamo, anche lo sconto fiscale del 3% sugli aumenti di capitale delle imprese fino a 500.000 euro, poi la Tremonti Ter, detassazione di parte degli utili investiti per l'acquisto di macchinari, moratoria sui debiti delle PMI, scudo fiscale, lotta all'evasione, le pensioni alle donne, le badanti, la una tantum di 500 euro per regolarizzarle. C'è chi dice potrebbe non essere sufficiente, per usare un eufemismo. Questa è la polemica che si sta verificando, che accompagna le decisioni che il governo via via la sta assumendo. Ricordo che questo probabilmente è il quarto o quinto decreto anticrisi che viene varato da quando la crisi è esplosa. Sì, io mi riferivo, per essere ancora più precisi, a un'intervista oggi sul quotidiano della Repubblica del numero uno di Banca Intesa, Corrado Passera, che diceva vanno bene le misure, però temo che non siano sufficienti. Questo per dire che anche al di là dello schieramento politico, ecco. Anche al di là dello schieramento politico c'è da parte anche del mondo delle piccole imprese, ad esempio, una critica, perché si ritiene, appunto oggi sui giornali veniva dato conto di un sondaggio di Confapi che, appunto, in base al quale le imprese si dicono deluse perché lamentano scarsi vantaggi da questa manovra. E il problema fondamentale è che il governo ha deciso di tentare la strada della manovra che possa dare una qualche scossa all'economia. Adesso che questo riesca o meno è ben difficile dirlo ora, perché stiamo nel pieno della crisi, quindi è ovvio che anche la Tremonti Ter, che è tendenzialmente un provvedimento, certo, che è espansivo, però chi può dire quanti faranno investimenti nuovi macchinari se investimenti non si fanno? Anche lo scudo fiscale è una scommessa, perché non si sa bene quanti denari effettivamente potranno rientrare. Dunque questo è un decreto che potenzialmente ha delle armi che potrebbero nel corso del tempo produrre degli effetti, ma è molto difficile dirlo. Certo, rispetto all'ampiezza della crisi ci vorrebbe un intervento ben più corposo, ma questo aspettiamo la finanziaria, vediamo se ci sarà un po' più di materia sulla quale il governo può intervenire. Dubito, perché le condizioni dei conti pubblici, che conosciamo tutti, insomma, non offrono grandi margini. Comunque, con l'atto di oggi, insomma, si va in pausa estiva per quello che riguarda la parte, diciamo, di politica economica, poi se ne riparlerà a settembre e soprattutto nella preparazione della legge finanziaria. Grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Volete continuate giustamente anche a scrivere del prezzo della benzina e del diesel. Non ho veramente nulla da aggiungere, se non notare, come abbiamo fatto decine di volte, vi furono anche esposti dei consumatori che, in coincidenza con i grandi esodi, aumenta il prezzo della benzina. Non so cos'altro, ammetto e confesso tutta la mia così impotenza sul tema e anche forse incapacità di andare oltre, visto che ci abbiamo provato decine di volte senza ottenere mai nulla, una vera sconfitta. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi di altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Dicevamo, dopo 9 sedute consecutive di rialzo, oggi qualche realizzo, li chiamo realizzi perché appunto le borse, il FTSE MIB resta sopra i 20.000 punti, i cali sono nell'ordine dello 0,4 Milano, 0,2 Parigi, 0,4 Francoforte. Addirittura Londra ha chiuso anche oggi in positivo di pochissimo, più 0,1, l'America meno 0,3% sul Dow Jones, meno 1,20% sul Nasdaq. Giornata così già estiva oggi a Piazza Affari, anche se, come ricordavamo in apertura, stanno uscendo e continueranno a uscire in queste giornate di fine mese i bilanci trimestrali, per cui il semestre, il secondo trimestre e il bilancio sul primo semestre. A questo punto oggi la volta di diciamo gruppi leader nel settore dell'information technology, Microsoft, Apple, ma anche nelle telecomunicazioni Ericsson e Vodafone. Per quello che riguarda i titoli, in assoluto il migliore è le CIR più 3,4, poi Banco Popolare più 2%, la Popolare di Milano più 1,90, Buzzi Unicem più 1%, Monte dei Paschi più 0,7, Pirelli mezzo punto percentuale di rialzo, come Atlantia e Unicredit. Fronte opposto, Luxottica meno 1,90, Fiat meno 1,5 come Finmeccanica, Terna meno 1,40 come Ansaldo, Eni meno 1,40 come Prismian, Mondadori meno 1,20 e anche UbiBank e Lottomatica perdono l'1,2%, Generali meno 1, Campari meno 0,90, Alleanza meno 0,80 come Mediolanum e Bulgari, ma anche Saipem. Euro a quota 1,42,1, il punto, come sempre con Radio Cori sulle 24 ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, CIR. CIR oggi in netta evidenza e soprattutto è riuscita finalmente a varcare la soglia del miliardo di capitalizzazione con il balzo che tu ricordavi. C'è stata una riscoperta del titolo oggi, in particolare per quanto riguarda da parte di UBS, che ha alzato anche le indicazioni sui prezzi obiettivo tanto su CIR quanto sull'altra holding della famiglia De Benedetti, cioè Cofide, indicazioni in chiaro scuro per quanto riguarda invece una delle controllate che oggi ha dato la trimestrale, cioè Sogefi, che ha accusato certamente un semestre complessivamente negativo, infatti il titolo ha perso oltre il 4%, bisogna dire che però c'è stata un'inversione di tendenza per quanto riguarda tanto i ricavi quanto la redditività nel secondo trimestre, e questo certamente è stato apprezzato dagli analisti, più che altro per l'effetto su CIR, non tanto per quanto riguarda direttamente Sogefi. Ancora i bancari, che anche loro andranno in trimestrale, quindi diffonderanno i dati del secondo trimestre. Ma oggi bene di nuovo Popolare Milano e Banco Popolare? Sì, diciamo che oggi il settore delle popolari è andato un po' in direzione opposta. Popolare di Milano e il Banco Popolare molto bene, mentre UBI ha perso oltre l'1%. Come tu ricordavi, però l'attesa è ormai focalizzata sulla prossima settimana e sulla prima settimana d'agosto, in cui arriveranno le trimestrali di alcuni istituti di credito. Le altre arriveranno, come nel caso delle popolari, per la fine di agosto, ma diciamo oggi la giornata non è stata negativa per quanto riguarda i gruppi bancari nel suo complesso. Anche Intesa San Paolo ha fatto più 0,30 dopo le parole dell'amministratore delegato Corrado Passer, che oggi in un'intervista a Repubblica ha comunque rassicurato, diciamo così, si è detto abbastanza ottimista sulla questione risanamento, su cui la banca risulta essere tra i principali creditori. Sì, ne parleremo tra poco di risanamento. Andiamo avanti con i titoli, quindi, anche perché è slittato domani il consiglio. Comunque, vediamo altri titoli oggi in borsa. I conti Vodafone, anche di questi parleremo tra un attimo, sono conti comunque buoni. Parlo di Vodafone anche a livello europeo. Telecom Italia poi chiude però con un meno 0,6%, in realtà in Europa una certa influenza c'è stata sui titoli. Sì, effettivamente Telecom Italia si è comportata in controtendenza rispetto a quelle che sono state le performance degli altri telefonici europei. Effettivamente i conti di Vodafone sono stati in linea con le stime, i ricavi sono cresciuti di oltre il 9% grazie in particolare alla spinta dei conti di India e Africa. Questo ha portato un generale ottimismo sul settore che tuttavia Telecom Italia non è riuscita a intercettare, almeno per quanto riguarda l'andamento di borsa. E allora, visto che stiamo parlando di Vodafone, dovrebbe essere in collegamento il direttore finanziario di Vodafone Italia, Emanuele Turnon. Buonasera. Buonasera. Dunque, dottor Turnon, abbiamo visto a livello di gruppo, primo trimestre con ricavi in crescita del 9,3% a 10 miliardi e 700 milioni di sterline, 12 miliardi e mezzo di euro. Per quello che riguarda poi le previsioni confermate dall'amministratore delegato Vittorio Colao, le previsioni per l'intero anno. Passiamo a Vodafone Italia, come sono andati i ricavi, poi veremo anche i clienti. Sì, i risultati del primo trimestre sono confermati positivi anche per quanto riguarda Vodafone Italia, nonostante chiaramente un contesto economico ancora incerto, caratterizzato da un clima internazionale di decrescita in senso generale del prodotto interno lordo dei paesi industrializzati, peraltro con alcuni timidi segnali di ripresa. Vodafone Italia ha chiuso il trimestre con ricavi da servizi in crescita del 3,1% e per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile in particolare, la crescita deriva dall'incremento dei volumi di traffico voce che hanno compensato, peraltro questa è una dinamica abbastanza tipica del nostro settore, hanno compensato, dicevo, la continua riduzione dei prezzi. La messaggistica si è confermata uno dei nostri punti di forza, in crescita di circa il 6%, ma la crescita è venuta soprattutto grazie alla crescita dei ricavi dai servizi multimediali, in particolare quei servizi relativi all'accesso a internet dal cellulare e dai servizi di banda larga mobile, quelli che permettono l'accesso a internet in mobilità dal portatile, dal PC. Quindi, come già si prevedeva anni fa, a fronte di un calo di prezzo, diciamo, unitario della telefonata, dal telefono mobile, cerco di far capire a tutti, questo calo dei prezzi, quindi anche dei ricavi per voi, viene compensato da un maggior utilizzo dei messaggi, ma soprattutto dalla componente, chiamiamola così, connessione a internet, anche se è un po' improprio, e tutti i servizi di carattere multimediale via telefonino. Esatto. C'è un'altra componente importante della nostra crescita che riguarda i servizi della telefonia fissa. Mm-hmm. Vodafone Italia e Tele2 hanno superato il milione di clienti ADSL, più di un milione di clienti hanno scelto i nostri servizi per connettersi ad internet in modalità fissa. con un incremento di circa il 75% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un'ultima domanda più in generale, dottor Turnon, sul settore della telefonia. Abbiamo visto trimestrali in calo per gruppi storici, classici, fortissimi nell'information technology, e mi riferisco soprattutto a Microsoft, meglio è andata invece Apple, ma soprattutto bene è andata in America AT&T, dove insomma l'utile per azione è stato superiore alle attese, di quasi 7-8% alle attese degli analisti. A suo avviso il settore telecomunicazioni, perlomeno in Italia, in Europa, sta tenendo meglio del settore information technology? Ma direi che sicuramente, come diceva lei, stiamo vivendo tutti quanti un clima di incertezza, un clima di alta volatilità dei mercati finanziari, anche se devo dire che nelle ultime due settimane ci sono stati dei segnali positivi di ripresa. Per quanto riguarda il nostro settore in particolare, io credo che certamente questo clima non aiuta la dinamica dei consumi. Anche se per quanto riguarda la domanda di servizi telefonici, noi notiamo una resistenza forse migliore che non in altri settori. Ovviamente ci sono dei servizi più impattati dalla crisi, mi riferisco in particolare a servizi di roaming o a servizi più discrezionali, che sono naturalmente più esposti al clima di recessione. Ovviamente il roaming dipende dalla quantità di viaggi, i servizi più discrezionali in qualche modo vengono gestiti con maggior attenzione rispetto ai servizi invece più diciamo necessariamente connessi ai fabbisogni di comunicazione. Ma al di là di questi diciamo punti di debolezza, io penso che la domanda di comunicazione forse abbia un livello di resistenza migliore che non quella di altri settori. Grazie al direttore finanziario di Vodafone Italia, Emanuele Turnon. Grazie a lei. E quindi Andrea Fontana, come tu ricordavi, i dati complessivi a livello europeo hanno ben favorito gli acquisti sul settore telefonico, anche se poi ha ritracciato Telecom mezzo punto percentuale di calo. Sempre alla luce anche dei dati che citavamo adesso con il direttore finanziario di Vodafone Italia, i tecnologici oggi invece hanno più sofferto. Tecnologici hanno sofferto perché effettivamente le indicazioni che sono arrivate da uno dei soggetti più in vista, cioè la svedese Ericsson, sono state invece deludenti per quanto riguarda gli analisti, i conti del secondo trimestre. L'utile si è più che dimezzato a 78,2 milioni di euro, e questo ha finito per impattare sui titoli strettamente legati al business di Ericsson e per quanto riguarda il FTSE MIB, in particolare per ST Microelectronics, che non ha avuto una giornata facile, anche se poi ha chiuso non troppo distante dagli indici, perdendo lo 0,7%. Ancora un paio di titoli tra i migliori e peggiori: Apulia, pronto prestito, più 15%. Tra i migliori, chiaramente, tra i peggiori Sogefi meno 4%, Banca Italease perde il 3%. Che è successo su Edes? Perché più 14% in un gruppo che si occupa di settore immobiliare non è male in questo periodo. Sì, certamente diciamo che Aedes aveva sofferto nelle ultime settimane per quanto riguarda la questione degli investimenti del gruppo Isoldi, che invece non assicurerà la sua adesione all'aumento di capitale. Proprio oggi su questo tema invece è arrivato l'ok della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo, e quindi al via dell'aumento di capitale che partirà lunedì. Un aumento che tra appunto emissioni di azioni Aedes e i warrant ammonterà a 150 milioni, è un aumento dove i principali soci hanno garantito la sottoscrizione delle rispettive quote, e quindi questa iniezione di risorse darà fiato alla società immobiliare, che certamente non attraversa un buon momento, ma il mercato ha dimostrato se non solo di crederci, ma anche un po' di puntare sulla speculazione, per quello che oggi il titolo è salito di quasi il 15%. Grazie, grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buon fine settimana a te e ai colleghi dell'agenzia di stampa. Ultima parte del programma e allora, come dicevamo, slitta a domani l'incontro allargato a tutte le banche creditrici di risanamento, alla società quotata in borsa che fa capo a Luigi Zunino, anche se lui ha rimesso tutte le deleghe e gli incarichi, e soprattutto che a questo punto fa capo di fatto alle banche. Perché? Perché Zunino aveva il 73% di risanamento, ma già il 20% era impegno a Intesa San Paolo, il 26% impegno a Unicredito. A questo punto l'indebitamento di risanamento è intorno ai 2,9 miliardi, quello della Galassia Zunino, cioè delle holding, scusatemi, è di quasi un altro miliardo. La nostra Laura Galvagni, ormai la voce di risanamento, o magari anche del risanamento di risanamento, buonasera. Buonasera a voi. Allora Laura, perché è slittato a domani l'incontro? Perché attualmente non è ancora stato trovato sostanzialmente un piano definitivo, c'è un progetto condiviso ma mancano ancora dei dettagli da mettere a punto. Oggi infatti i vari consulenti si sono incontrati in delle specie di summit one to one, ossia prima Salvatore Mancuso, che è il super consulente che ancora in questo momento sta seguendo la vicenda, è andato a Leonardo, quindi è andato anche in altre banche facendo una sorta di percorso per tentare di chiarire un po' con tutti quale sia il quadro della situazione. Domani appunto ci sarà questo super vertice in attesa del consiglio d'amministrazione di lunedì, dove ci si augura verrà licenziato questo piano definitivo di ristrutturazione. Ma è vero che in realtà sarebbe slittato domani perché del gruppo di banche maggiormente esposte con Zunino, che sono appunto Intesa San Paolo, Unicredito e anche la Banca Popolare Italiana, proprio Unicredito avrebbe chiesto ulteriore tempo, cioè non avrebbe aderito subito come invece hanno fatto la Pop Milano e il Banco Popolare assieme a Intesa? Le indiscrezioni raccolte fino a questo momento fanno pensare che Unicredit si sia presa dell'ulteriore tempo per approfondire la questione, per capire se le linee guida che sono state messe a punto sono sufficienti e sostanzialmente in quale direzione si vuole andare. Sembra che la banca, tra virgolette, dissenziente sia Unicredit e quindi ci sono queste ulteriori 24 ore necessarie per approfondire l'operazione. Vabbè, immaginiamo che, come dice oggi Salvatore Mancuso, visto che ci sono tutte le condizioni per trovare un accordo, si arrivi all'accordo tra le banche, quindi lunedì consiglio di amministrazione, e poi cosa si inizierà a vendere? Perché abbiamo letto delle informazioni di un aumento di capitale, cioè di fondi a disposizione delle banche tra i 250 e i 300 milioni di euro, non di più. Esattamente, ci sono anche ipotesi più elevate, ma al momento non è dato sapere se effettivamente si possa andare oltre rispetto ai 350 milioni inizialmente previsti. A quel punto il passo successivo, ammesso che il giudice sostanzialmente decida che effettivamente risanamento non deve andare in fallimento, il primo passo da parte dell'azienda sarà quello di convocare un'assemblea straordinaria, si suppone per inizio settembre, perché ci vogliono 30 giorni per poter convocare i soci e dare via libera all'aumento, aumento che verrà sottoscritto convertendo parte dei debiti delle banche e potenzialmente anche iniettando nuova cassa. Nel mezzo ci sarà probabilmente un prestito, una sorta di prestito ponte che dovrebbe sostenere l'operatività dell'azienda finché non sarà ripatrimonializzata. Ecco, per far capire a tutti, qui c'è bisogno di soldi freschi perché sennò insomma, il gruppo chiude, e arriveranno in parte freschi, in parte appunto come tu ricordavi, riconversione del debito. Detto questo, i 300, i 350 milioni, forse qualcosa anche in più, potranno servire e serviranno a non chiudere, ma poi bisognerà prendere anche delle iniziative strutturali su questo debito che almeno per la parte risanamento vale quasi 3 miliardi. Assolutamente. Esattamente, oltre alle iniziative strutturali saranno di tipo industriale, cioè quello che si è cercato di fare fino ad ora, di tentare di valorizzare il portafoglio di asset, si cercherà di accelerare su quel fronte e soprattutto si cercherà di superare il nodo di Milano-Santa Giulia e il nodo della riconversione dell'ex area Falca, che sono i due principali progetti che la società ha in essere, ma che al momento sono ancora in alto mare, soprattutto per quanto riguarda l'ex area Falca. E questo per quello che riguarda l'ex area Falca, che è quella, diciamo, più indietro nei lavori, da quello che si è capito potrebbe essere, diciamo, dismessa prima, come negli asset, l'area Falca rispetto a Santa Giulia? Ma dunque, l'ex area Falca è un progetto abbastanza complesso, nel senso che si è cercato inizialmente di trovare un compratore, l'operazione non è andata in porto e quindi si è studiata la possibilità di far confluire tutta l'area con progetto annesso in un fondo immobiliare partecipato dalle banche creditrici, e si sarebbero prese l'onere dello sviluppo e di conseguenza anche gli onori dell'eventuale sviluppo dell'area. Il progetto però attualmente congelato in attesa, uno, che si definisca il piano di ristrutturazione, e due, che il giudice si esprima sull'eventuale fallimento della società. Però sicuramente questo è un nodo cruciale per la ristrutturazione di risanamento. Eh sì, perché giustamente tu hai fatto notare che oltre alle tappe del, diciamo, del risanamento, ci sono anche le tappe e l'agenda, il calendario dettato dalla magistratura, appunto il 29. Sarà una data fondamentale per capire poi come vogliono procedere i magistrati. Sembra appunto che Greco sia il PM che andrà a coordinare le intere indagini. Grazie a Laura Galvagni del Sole 24 Ore, e buon fine settimana anche a te. Allora, volete sapere di altri titoli che ho omesso? Chiedo scusa se ogni tanto succede, non abbiamo dato Eni, Fiat e altre banche, correggo subito l'errore: Eni meno 1,4, per quello che riguarda Fiat meno 1,5, Luxottica meno 1,90, sono questi tra i titoli peggiori, assieme a Finmeccanica, anch'essa meno 1,4%, Prismia meno 1,3%, Mondadori meno 1,2%, Ubibanca meno 1,2%, Lottomatica meno 1,1% come generali. Tra chi è guadagnato citiamo anche Monte dei Paschi più 0,7% e Pirelli mezzo punto percentuale come Unicredito e Italcementi. Chiudiamo con una notizia un po' più, non leggera perché il dato è pesantissimo, però insomma che riguarda un po' il mondo non tanto dei ricchi ma di chi tratta sulle ricchezze. La De Beers, colosso mondiale, quasi monopolista mondiale dei diamanti grezzi, ebbene nei primi sei mesi dell'anno, e delle volte si capisce di più su chi abbia pagato per questa crisi da dati come notizie come questa che non da tante analisi, meno 57% le vendite dei diamanti sono letteralmente crollate, non è mai successo dal 1974 che i diamanti grezzi scendessero a questo livello. Pensate che l'anno scorso nei primi sei mesi dell'anno De Beers ha venduto diamanti per 3,7 miliardi, adesso per 1,4 miliardi. La nostra Anna Marino ha intervistato David Prager, che gestisce tutte le relazioni del gruppo De Beers. It's been an extraordinarily difficult first half of the year. È stata una prima metà dell'anno straordinariamente difficile, sia per i consumatori che per le imprese di tutto il mondo, schiacciati dalla recessione. Il settore lusso non ha fatto eccezione, compreso quello dei diamanti. Tutti, anche noi, ci aspettavamo di avere un calo nelle vendite nella prima parte dell'anno. Detto ciò, riteniamo di aver toccato davvero il fondo nel primo trimestre del 2009. Da quel momento in poi, nel secondo trimestre, abbiamo visto un graduale rialzo nelle vendite e ora sono raddoppiate rispetto al primo trimestre. Certo, non siamo tornati a livelli normali, ma guardiamo con cautela al futuro. È stato importante per De Beers, a fronte del calo drastico delle vendite, reagire facendo i passi necessari per fronteggiare la crisi. Siamo intervenuti sulla nostra organizzazione, visto che abbiamo miniere in Sudafrica, Botswana e Namibia e Canada. Abbiamo cercato di preservare la nostra forza lavoro e agire sul bilancio. Così abbiamo tagliato i costi del 56% rispetto all'anno scorso. Sì, Sì, poi sarebbe interessante capire come la De Beers taglia i costi del 50% nelle miniere del Botswana e del Sudafrica, ma non mi permetto di aggiungere altro. Nel frattempo auguro a tutti voi in ascolto un buon fine settimana, e le prossime due settimane il programma sarà condotto da Valeria De Rosa. Noi ci risentiremo dal 7 agosto. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione.